GR Europa. Un saluto da Gigi Donelli, la parola chiave è clausola di investimento. È da qui infatti che potrebbe passare la possibilità di vedere la quota nazionale del cofinanziamento UE sganciata dai parametri di Maastricht e quindi dalla soglia del 3%, una misura per stimolare gli investimenti in tempi di crisi in quegli stati membri che sono fuori dalla procedura per deficit eccessivo. E quindi da ieri anche per l'Italia. Allo Stato resta una possibilità in discussione nei confronti dei quali si è espresso positivamente anche il commissario UE alle politiche regionali Johannes Hahn. Ci sono voluti 2 anni, ma finalmente c'è un'intesa sulla riforma della politica comune della pesca. Gabriel Mato, presidente della Commissione Pesca del Parlamento, è molto soddisfatto. Oggi è un giorno importante per le istituzioni della Unione Europea. I negoziatori delle 3 istituzioni europee, Parlamento, Consiglio e Commissione, hanno finalmente raggiunto un'intesa che vuol dare maggiore sostenibilità alla pesca europea. Il principio è tagliare gli sprechi, quindi vietato rigettare in mare i pesci inadatti alla commercializzazione, vietata la sovrappesca in Europa, ma anche nei mari extraeuropei da parte di flotte comunitarie. Terzo punto, dice la commissaria europea alla pesca Damanaki. Stop having all the decision making take place here in Brussels. Basta decisioni prese a Bruxelles. Ci vogliono piani di lungo periodo e decisori regionali vincolati al solo rispetto degli obiettivi comunitari. Un accordo con luci ed ombre, secondo Guido Milana, vicepresidente della Commissione Pesca di Strasburgo. Mette buone regole, ma non fissa azioni concrete. Più duro il commento delle associazioni ambientaliste. La riforma non garantisce il recupero degli stock ittici. E la Coldiretti ricorda che il 4 luglio l'Europa inizierà a essere dipendente dalle importazioni per coprire il proprio fabbisogno di pesce. È un compromesso, ammette la negoziatrice del Parlamento europeo, Ulrike Rodust, ma ne sono soddisfatta. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Migliore, più veloce e più sicura. Le nuove regole sulla sperimentazione clinica sono state approvate in Commissione Ambiente del Parlamento europeo. L'europarlamentare inglese Glenys Wilmot, che segue il dossier, ha spiegato che un aggiornamento della direttiva 2001 che regola la sperimentazione clinica in Europa era necessario perché le regole sono troppo complesse, erano troppo complesse e rendevano i test costosi e lenti. Abbiamo alleggerito la norma rendendola più semplice, ha detto la Wilmot. Poi abbiamo introdotto un sistema di indennità in modo che la ricerca scientifica universitaria possa permettersi di pagare le assicurazioni, ma il passo più importante è legato alla trasparenza. Tutti i test, quelli riusciti o meno, dovranno essere pubblicati e i test commerciali dovranno produrre delle relazioni sugli studi clinici una volta che il medicinale sarà stato autorizzato. Bene, e con questo è tutto per GR Europa, per la settimana di GR Europa, che naturalmente torna a partire da lunedì poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.